cartellone di Elisabetta Fiorito. Cari amici, è per me un grande piacere incontrare voi tutti. Amo il teatro di prosa in tutte le sue espressioni. Ho avuto per amici autori e attori per tutta la vita. E in un'occasione come questa mi si affollano alla memoria tante giornate, tanti spettacoli, tanti nomi e volti di attori famosi e meno famosi, di mattatori, come una volta si diceva, e di attrici e attori che mi hanno regalato serate bellissime a distanza di anni ancora indimenticabili. Certo è che chi come me, e ovviamente come voi, ama e conosce il teatro, sa bene che nulla può sostituire la magia della serata dinanzi al palcoscenico, della creazione diretta e ogni sera rinnovata di un'opera teatrale sempre uguale e in qualche modo sempre diversa. Tutto questo proprio la televisione non ce lo può restituire, e lo stesso può dirsi del cinematografo, che noi egualmente umiamo. Ma né TV né cinema hanno assolutamente potuto togliere dai nostri cuori la passione per il teatro. Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata di Cartellone. Abbiamo sentito le parole del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che parla della Giornata Internazionale del Teatro. Oggi quindi si festeggia il teatro in tutte le sue funzioni e le sue manifestazioni. E noi diamo il benvenuto subito a Fiorenzo Grassi, Presidente dell'AGIS Lombardia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Allora, che cosa c'è in programma in Lombardia? Moltissimi gli avvenimenti. Beh, intanto mi faccia dire che insomma siamo molto rincuorati dalle alte parole del Presidente della Repubblica. Il teatro ha molto bisogno di incoraggiamento in questo momento, non perché non sia ricco e creativo, ma perché vive e soffre una condizione di sottoriconoscimento da parte degli enti pubblici che dovrebbero comunque in qualche modo garantirgli una vita un po' più serena, ma tant'è, la situazione del nostro paese è una situazione di grande difficoltà, per cui è chiaro che tutti siamo immersi in questo mare di con queste onde, questo mare aperto così difficile. La Lombardia, come del resto tutta l'Italia, finalmente è arrivata a festeggiare il teatro e a dedicargli una giornata. A Vienna l'hanno inventata nel 1961, noi ci abbiamo dovuto mettere un tot di tempo, non poco, per riconoscere le caratteristiche e le peculiarità di questa arte, come ha detto il Presidente della Repubblica, sempre uguale ma sempre diversa, totalmente irripetibile. La televisione e il cinema sono due strumenti profondamente diversi che non sostituiranno mai il teatro. Ringraziamo Fiorenzo Grassi. Ma io non ho idea di come l'abbia presa, di dove l'abbia trovata, di dove sia arrivata, di come sia nata, di come sia fatta. Lo debbo ancora capire. So solo che questa tristezza mi rende così stupido da stentare a riconoscere. Ci sforziamo di fare del teatro. Si è convertito? Soffre, povero uomo. Sì, soffre. When Israel was in Egypt land. E quella che sentite, quello che sentite è un brano del Mercante di Venezia, è un brano interpretato da Moni Ovadia di Shylock, interpretato sia da Moni Ovadia sia da Shel Shapiro, è in scena al Teatro Argentina di Roma fino a domani. Buongiorno Shel Shapiro. Sì, è il Mercante di Venezia in prova, in verità. Il Mercante di Venezia in prova, perché Shylock, il Mercante di Venezia in prova, sì. In prova. No, per non fare confusione tra quello puro di Shakespeare, per intenderci. Infatti questa è una riscrittura di Roberto Andò e Moni Ovadia. Ma lei, Shel Shapiro, che cosa interpreta? Chi interpreta? Io faccio Shylock. Ah, non è Moni Ovadia, noi avremmo pensato. No. Moni fa il regista che vuole mettere in piedi lo spettacolo di Mercanti di Venezia. Dopo anni e anni che ci prova, finalmente trova un furfante che lo finanzia questa messa in scena. E io sono Shylock, solamente non sono un attore che fa Shylock, sono Shylock quello che ha più di 400 anni, insomma. L'eterno spirito di Shylock, esatto, praticamente. Esatto, l'usuraio del naso adunco. L'ebreo errante. Una specie di Highlander prestedenaro. Ah, ma anche nella letteratura ebraica, no? C'è l'ebreo errante, la figura dell'ebreo errante. Certo. Allora, e quindi 400 anni come li dimostra sulla scena Shel Shapiro? Abbastanza bene. Ma io so che lei in questi giorni ha anche pubblicato un libro con Mondadori, sì. Shel Shapiro, io sono immortale. E quindi un pochino rientra in questo Shylock di 400 anni. Sì, lei ha ragione, non sono collegati, chiaramente. No, io sono immortale, è un'altra storia. Un'altra storia, però sì. Un pochino ci rientra, visto che c'è questo rientro. Come figura sì, ecco, in quel senso lì sì. Che cosa è la cosa che la colpisce di più di Shylock? Di un personaggio che praticamente è un personaggio negativo, però che subisce poi un razzismo molto forte. Beh, la cosa che impressiona di più, secondo me, è l'utilizzo che ha fatto Shakespeare di una figura, diciamo, di questo ebreo, diciamo, che presta denaro, degenerato, egocentrico, tacagno, con il quale Shakespeare ha in qualche modo segnato un popolo, senza aver mai conosciuto un ebreo, perché gli ebrei in Inghilterra erano espulsi nel 1290 fino al 1665, quindi in qualche modo Shylock era, il Mercante di Venezia era scritto nel 1616-18, insomma, quindi lui è riuscito a stereotipare l'ebreo in un modo assolutamente e totalmente negativo per molti secoli attraverso questo personaggio qui. Quindi io, tu dici, ok, allora Shell cosa fa? Allora io faccio un percorso di Shylock scritto da Shakespeare e poi il percorso di Shylock l'uomo, l'essere umano che dopo 400 anni continua a dover vivere questa diversità, come l'uomo diverso, l'uomo spregevole, e come i riflessi umanitari che ha questa cosa qui, ma io diverso perché sono diverso, ma come sono diversi, chiunque non entra nei canoni del potere, diciamo. Come sono diversi oggi gli immigrati. Immigrati, i Rom, quindi i Rom, gli extracomunitari, certo. Chiunque. E quindi ristravolgere la figura negativa che ha fatto Shakespeare, che comunque nella sua grandezza aver costruito una figura così negativa ci fa capire fino a che punto arriva il pregiudizio, e questa figura poi purtroppo ha dato la stura, no? A tutta una serie di pregiudizi, e capire attraverso lo spettacolo di Moni Ovadia e di Shel Shapiro come il pregiudizio in realtà maschera la paura del diverso. Esattamente, non avrei potuto dirlo meglio, va? Allora, ricordiamo un Shylock molto molto diverso, interpretato da Shel Shapiro, con il regista interpretato da Moni Ovadia, un testo di Roberto Andò e Moni Ovadia, fino a domani al Teatro Argentina di Roma. E poi andiamo a Carrara e poi subito dopo Pasqua siamo per una settimana al Teatro della Corte a Genova, cioè giriamo molto, insomma. Cartellone. E adesso parliamo di una storia d'amore, però fatta d'amore e di profumo, perché è la storia di Sergio, un falegname, che ha ovviamente il suo profumo di legno, poi di Cristina, sua moglie, che profuma invece di pane. Poi c'è anche Giuseppe, il vecchio falegname, che profuma di Vinaville, ve la ricordate la colla che si odorava quando eravamo bambini? E poi invece c'è un giovane in bevuto di calcio, purtroppo però senza profumo. Secondo me un testo di Michele La Ginestra, ultimo weekend al Teatro Italia di Roma, ma vediamo se magari la prossima stagione questo spettacolo sbarcherà da qualche altra parte. Buongiorno Michele. Buongiorno a tutti voi. Allora, Sergio Fiorentino e Corinne Bonuglia mettono in scena questa che è una commedia. Questa è una commedia molto divertente per, diciamo, il 50, cioè il 50 minuti iniziale è proprio esilarante, poi scivola un momento in un momento di riflessione e poi riprende la brivio, la parte divertente. Ma è una commedia che ho scritto nel quale appunto descrivo tutti gli odori, i profumi, perché la memoria olfattiva è una memoria molto vivace, però proprio per descrivere il mestiere del falegname ho usato questa cosa degli odori che funziona molto, perché l'odore del legno è un odore che appartiene un po' a tutti, e per descrivere la vita attraverso gli odori, il legno e il pane mi sembrava fossero dei profumi antichi ai quali tutti possono rifarsi, e per fare poi il contatto con un calcio dico senza odori, perché sono, cioè la modernità che spesso e volentieri corre troppo veloce, cioè non ha neanche il tempo per ascoltare il profumo delle cose che si vivono. Qual è l'intreccio tra Sergio e Cristina? Ma Sergio e Cristina si conoscono da piccoli, perché Sergio fa l'apprendista nella bottega del papà, diventa falegname pure lui, e lui è affascinato dalla calma con la quale lavora il legno il vecchio Giuseppe falegname, e la calma con cui lei danza, perché lei è una ballerina che è bellissima e elegante nel movimento. Questi due movimenti armoniosi, quello del falegname e quello della ballerina, in fondo sono descrizioni della vita che noi possiamo passare se siamo sereni, cioè il movimento della danza è sempre molto, molto armonico, molto melodioso, ecco, come quello del falegname che sega, che dipinge, che taglia, insomma, cioè, ci sono delle cose che vengono accomunate. Però insomma mi piacerebbe descrivere una situazione di vita bella, serena, nella quale capita qualcosa e perciò bisogna trovare una risposta a quelle cose scomode che ci accadono nella vita. E che cosa accade? Ce lo puoi accennare? Ma un trauma forte, nel senso, una coppia felicissima, al momento dell'apice della gioia, uno dei due scompare, però scompare così sembra agli occhi della gente scompare per sempre, invece se c'è questa ricerca da parte del falegname, che ricerca proprio attraverso la sua semplicità di togliere il superfluo che c'è nella vita e renderlo vivo, al punto che poi rivive alcune sensazioni che sono oniriche, il sogno del falegname, perché quello di San Giuseppe il falegname. Insomma, ma te ti identificavi con Geppetto, dai, leggendo Pinocchio, abbiamo capito, Michele. Questo sarebbe, hai colto tutto lo spettacolo. Ma lo sai che io devo parlare di uno spettacolo del quale non voglio svelare il finale. Certo, ma noi allora non vogliamo che tu lo sveli, anche perché ricordiamo, e qui chiudiamo, al Teatro Italia questo weekend, secondo me, ultimo weekend, questo spettacolo di Michele La Ginestra. E Michele, speriamo che il prossimo anno tu lo porti in giro per l'Italia. Il secondo anno che lo riprendiamo, piace molto la poesia, piace molto perché è molto molto divertente e c'è questo pizzico di poesia che non guasta mai. Un pizzico di poesia un po' romanesca, a quanto abbiamo capito. Molto meno male, va bene, in questo però io sono partigiana, poi sai non si può parlare troppo perché hai visto la Roma, ha agganciato il Milan, ma noi siamo scontentissimi. Ti saluto Michele. Ciao. Un saluto a tutti. Ciao. E scusate questa vena politically incorrect sul calcio, ma facciamo una trasmissione di spettacoli, quindi. E andiamo invece al Teatro Franco Parenti di Milano. Credo che l'amore sia il grande tabù del nostro tempo, no? Noi abbiamo il terrore dell'amore, infatti è la cosa che fa più paura, perché l'amore ti costringe a metterti a nudo, a vivere nudo, senza difese, no? Ma è anche l'unico modo per vivere integralmente la realtà umana. E quella che avete sentito è Susanna Tamaro nel suo spettacolo Love, che è in scena per questo weekend, come accennava, al Teatro Franco Parenti di Milano, e per poi spostarsi dal 30 al Teatro 2 di Parma. Il testo scritto da Susanna Tamaro è interpretato da Mascia Musi. Buongiorno Mascia. Buongiorno, salve. Un progetto di Emanuela Giordano e Mascia Musi. Insomma, c'è ancora spazio per l'amore in questa società così cinica? Beh, in questa storia sicuramente no, purtroppo. perché è una storia di un'infanzia negata, e quindi è la storia di una bambina rom a cui appunto l'amore viene negato totalmente. È una bambina che viene venduta per due copertoni da neve da una famiglia molto povera, viene messa in un sacco assieme ad altri bambini, in altri sacchi, in un camion. Su questi sacchi mettono delle balle di fieno e quindi passano la frontiera, arrivano in un altro paese, vengono scaricati tutti, messi in un appartamento, lì vengono in qualche modo attrezzati a rubare al meglio, quindi fanno una scuola in questo senso molto dura, e vengono rivenduti ad altre famiglie per in qualche modo diciamo contribuire alle entrate familiari, Mascia, di zingari. Ecco, tu che ruolo interpreti? Racconti, sei il narratore di questo dramma? Dunque, io per la prima volta affronto il teatro di narrazione con questo spettacolo, un teatro che in questi ultimi anni sta diventando importante, penso a fenomeni di massa come Paolini, Celestini, Baliani, ed evidentemente c'è questo bisogno di ritrovarsi anche a teatro ad ascoltare delle storie. E quindi ecco, per me è un'esperienza completamente nuova in cui ho dovuto abbattere quella che si dice la quarta parete e parlare con gli spettatori occhi negli occhi, e in qualche modo entro ed esco dalla storia sicuramente, perché in qualche modo vorrei, devo raccontare il punto di vista, tento di raccontare il punto di vista di questa bambina. E che è appunto anche per me come esperienza personale, ogni sera insomma mi ricordo che tutto ciò esiste e che non possiamo appunto dimenticarlo in un momento in cui siamo distratti da molti altri problemi. Allora, Love, a quanto ho capito, un racconto di Susanna Tamaro con Mascia Musi, ricordiamo al Teatro Franco Parenti fino a domenica, poi da martedì al Teatro 2 di Parma, ma è soprattutto un racconto per scoprire dove manca l'amore, un racconto di denuncia. Grazie Mascia. Grazie a voi, buon lavoro. E quello che sentite è un brano di Madonna, cioè di una Madonna un po' particolare, perché abbiamo sentito un brano quasi al rovescio. If I Was Madonna di Alessandro Sciarroni, oggi 27 marzo, in scena al Teatro della Concordia a San Benedetto del Tronto, per poi girare a Napoli, Urbino, addirittura arrivare a Oslo. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Allora, If I Was Madonna, noi pensiamo, parlerà della famosa pop star. Sì, esatto, sì, siamo partiti da questo personaggio che in questo caso per noi, come potrete intuire, è più che altro un pretesto per parlare di qualcosa che riguarda più in generale l'essere umano, la condizione umana. Ecco, ma noi abbiamo sentito un brano distorto di Frozen. Sì, esatto, questo è un lavoro che ha fatto un musicista contemporaneo che si chiama Paolo Persia, che nelle mie ultime produzioni sta collaborando in maniera abbastanza regolare con me, appunto il titolo dello spettacolo è If I Was Madonna, per cui tutte le persone, a partire da me che ho fatto la regia, fino agli interpreti, fino al compositore, ci siamo messi un attimo nei panni della vita, della biografia, della poetica di questa cantante pop, e abbiamo cercato di fare un commento sulle cose che ha fatto lei, però se fossimo stati noi al suo posto. E questa è la sua versione di Frozen, che in italiano è diventata Gelido. Senti, ma tutti quanti si identificano con Madonna? Secondo te tutti vorrebbero essere Madonna? No, assolutamente, non era questo il punto di partenza. Infatti io, come prima fase di ricerca, ho spedito a tantissime persone, a tutti i miei contatti, tutte le canzoni di Madonna tradotte in italiano, quindi tutti i testi tradotti in italiano, chiedendo di... Beh, non è che siano questi grandi testi, cioè no, esatto, sono una ragazza materiale, sì, pure sì, tu, quando guardo i diamanti mi illumino il mio... Esatto, era un materiale molto semplice, anche molto... però è interessante, perché in realtà Madonna comunque è da più di 25 anni che è sulla cresta dell'onda, e quindi tutti comunque avevano un piccolo ricordo, e i commenti che ho ricevuto su questi testi in realtà sono stati o magari relativi a un ricordo rispetto a un video, rispetto a una canzone. C'è stato anche chi ha voluto insultare la cantante, molti l'hanno fatto, quindi erano assolutamente eterogenei. Da questi materiali qua siamo partiti assieme ad Alessandra Morelli per costruire la drammaturgia del lavoro, ecco. If I Was Madonna di Alessandro Sciarroni, in scena oggi 27 marzo a San Benedetto del Tronto al Teatro della Concordia, e poi l'8 maggio a Napoli, il 22 aprile a Urbino, e poi addirittura ad aprile ad Oslo. Grazie Alessandro. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Cartellone. E adesso parliamo del Dane Festival. Sì, perché dal 25 marzo al 30 aprile si è aperto a Milano la 12ª edizione del Dane Festival, il più longevo festival milanese dedicato alle arti performative, insomma. Ma di che cosa si tratta? Alessandra De Santis, direttore artistico, buongiorno. Buongiorno. Allora, che cosa avviene a Milano durante queste giornate, anzi questo lungo mese, dal 25 marzo fino al 30 aprile, a voglia? Avviene che c'è questo bellissimo festival, Dane Festival, che presenta, come ormai da molti anni a questa parte, un panorama che non vuole essere ovviamente esaustivo, ma che comunque dà conto di quello che si agita nella scena contemporanea straniera e italiana, europea e italiana. E noi sappiamo che ci sono vari spettacoli, no? C'è praticamente anche uno spettacolo un po' particolare, uno spettacolo che parla addirittura di striptease. Beh, noi chiaramente qui a Cartellone siamo un po' ironici, no? Però so che è uno spettacolo dello spagnolo... Uno spettacolo che hai citato, che comunque sarà in scena fra un bel po', cioè il 29 e 30 aprile, perché il festival è cominciato giovedì sera, il 25 marzo, e prosegue fino al 30 aprile. E sarà in scena appunto in quei giorni 29 e 30, Pere Faura, che è un artista spagnolo, che porta questo spettacolo che si chiama Striptease, che è molto ironico e divertente, dove lui si diverte a, come dire, dialogare con Demi Moore nell'omonimo film, e quindi fa tutto un discorso su chi guarda e chi è guardato. Però i prossimi appuntamenti stasera... Ecco, iniziate con Stephen Cohen? Sì, c'è Stephen Cohen, che è un performer straordinario, che fa della sua biografia un punto di forza delle proprie performance, che vengono sempre attuate in contesti molto particolari. Lui si muove in tutte le città del mondo, fa dei progetti ad hoc, e noi presenteremo alcuni suoi video che riprendono queste performance, e anche una performance live, in particolare quella che si chiama Chandelier, dove Cohen indossa un enorme lampadario a gocce in stile Settecento, e fa una traversata, una lunga traversata con questa immagine poetica negli slums di Johannesburg durante diciamo il disfacimento delle baracche da parte della polizia. Quindi diciamo che è anche un performance estremo, insomma, nelle scelte, nei contesti che sceglie, no, per proporre la sua immagine. Poi c'è da non perdere lunedì David Van Pack, che è un pazzo scatenato, è un danzatore molto giovane, un fan prodigio, diciamo, su cui stanno puntando gli occhi ovviamente i francesi, ma anche insomma tutta la scena europea, che fa questo lavoro che io ho definito giovane e ruvido al tempo stesso, che è anche molto divertente, molto ironico, dove lui gioca con delle immagini di film che riprende, tipo film trash come quelli di John Waters, dove lui fa tutte le parti. Insomma, è un lungo mese. Noi consigliamo a tutti coloro che sono interessati alle arti figurative, prima di tutto, di convergere a Milano, se non sono a Milano in questo mese, e poi di capire che il festival si svolge anche in vari teatri: Teatro Out Off, Teatro I, poi l'Achesi Lab e poi Colonne di San Lorenzo. A che ora iniziano gli spettacoli? Alle 21, tranne il progetto Le Colonne di San Lorenzo, invece è andata pomeridiana. Comunque tutte le informazioni si possono trovare sul sito, sì, che è www.danaefestival.com. Allora ricordiamo, per il Dane Festival, tutti quanti a Milano fino al 30 aprile, www.danefestival.it. Grazie, sì. Alessandra. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Allora, qui ci immergiamo sempre nel capolavoro, in uno dei capolavori della nostra lirica, La Bohème di Puccini. E poi diciamo che le distanze però si accorciano dai tempi di Puccini, sì, perché da Torre del Lago ad Abu Dhabi il passo è breve, sì, perché proprio la nostra Bohème, in un allestimento firmato da Scaparro e Folon, è in scena proprio ad Abu Dhabi. E in collegamento abbiamo Massimiliano Simoni, presidente della Fondazione del Festival Pucciniano. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Come sta andando? Ma veramente alla grande. Abbiamo avuto ieri sera un grandissimo successo per la prima rappresentazione, fra un'ora ci sarà la seconda. Un entusiasmo, un pubblico veramente in delirio per questo grande nostro maestro qual è Puccini. La Bohème sicuramente è l'opera più rappresentata all'estero, perché è quella anche più comprensibile a chi magari si avvicina all'opera, come sicuramente il mondo arabo, se si considera che è la prima volta che un titolo del genere viene proposto e che un'opera intera viene proposta nel mondo arabo. Quindi c'è una grande attenzione, grande curiosità, e c'è stata una grandissima risposta di pubblico, grandi consensi da parte delle autorità locali che già ci hanno invitato al prossimo Abu Dhabi Opera Festival del 2011, e questo per noi è sicuramente grande vanto e grande onore. Ecco, ad Abu Dhabi, negli Emirati, come viene vista la storia della Bohème, la storia di Mimì? Insomma, non viene considerata un po' scandalosa? Ma guardi, alla fine abbiamo trovato più apertura di quello che credevamo. Sì, abbiamo dovuto fare dei piccoli tagli, dei piccoli accorgimenti, magari evitare abiti troppo succinti o il bacio in scena. Però a parte questo, devo dire che ha trovato grande consenso, e poi ecco, andando a giro per Abu Dhabi si capisce che poi anche il mondo arabo non è proprio solo il mondo dei talebani, ecco, ci sono in Arabia Saudita. Sicuramente Abu Dhabi ha una mentalità più aperta rispetto ad altri paesi del mondo arabo, hanno sicuramente grande fame di cultura, quindi ci sono state importanti relazioni con la Francia, con il Louvre, oggi con noi, con Puccini. quindi devo dire che abbiamo trovato anche una mente un po' elastica, e questo ci ha un po' anche sorpreso in tutta onestà. Anche nel personaggio di Musetta? Sì, certo. No, perché insomma, Musetta fa anche un mestiere un po' particolare, che magari non so se nel mondo arabo sia così accettato, ecco. Ma guardi, perché poi alla fine siamo un po' tutti ipocriti, no? Perché se si pensa, basta andare anche nei grandi alberghi, non è che si trovi poi tutta questa castità, o anche lì si trova... Si trovano delle musette di turno. Sì, sono diverse le musette, le musette che confrontano una educanda, mi creda. E quindi alla fine ci siamo fatti a volte anche tanti scrupoli, e non era poi così. Ecco. Sì, ci hanno detto lì, dice, ecco, Musetta, se non alza troppo la gonna quando si leva la scarpina, magari abbiamo evitato questo, però poi alla fine è un po' tutto parte di un gioco, che a loro sta bene. Ringraziamo Massimiliano Simoni e ringraziamo soprattutto per aver portato la nostra opera addirittura ad Abu Dhabi, e da Torre del Lago appunto, speriamo noi di rivedere presto le opere ovviamente del grande maestro Puccini qui in Italia. Certamente, noi invitiamo lei e tutti quelli che ci ascoltano a venirci a trovare. Il nostro festival quest'anno inizia il 16 luglio con la prima di Fanciulla dell'Ouest in un nuovo allestimento con le scenografie di Franca Adami, e questo a 100 anni dalla prima rappresentazione a Metropolita a New York, il 10 dicembre del 1910. Non ad Abu Dhabi, ma chiaramente a luglio ci rincontreremo a Torre del Lago. Grazie Massimiliano. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci. A questo punto, visto che da Torre del Lago siamo passati ad Abu Dhabi, facendo un giro del mondo ipotetico, noi passiamo da Buenos Aires a Torino. Sì, perché a Torino c'è il 10° International Tango Torino Festival, e praticamente, per fare due passi avanti e tre indietro, noi andiamo a sentire come sta andando. Stefano Giudice, buongiorno, direttore dell'International Tango Torino Festival. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, fino al 5 aprile si balla in città. Si balla un po' in tutti gli angoli e gli spazi della città, perché inizieremo proprio oggi e domani nelle piazze importanti di Torino, in Piazza Castello e in Piazza San Carlo. Si ballerà riscoprendo un po' la cultura popolare del tango, quella che insomma nasce proprio nelle strade, per cui ci saranno avvicinamenti anche per le persone che non conoscono ancora questa danza, e sia oggi che domani. Poi invece lunedì ci sarà il grande spettacolo di apertura ufficiale dell'evento al Teatro Regio di Torino, dove cinque coppie di ballerini straordinari saranno in scena insieme all'orchestra Assembly Perion in uno spettacolo che darà il via alle danze in modo ufficiale. Quindi... Poi la manifestazione proseguirà per tutta la settimana, nel senso che i giorni successivi l'evento prenderà casa nella sede nata per il tango quest'anno, il Club Almagro di Torino, dove ci saranno serate di ballo fino a giovedì, e poi il weekend pasquale entra nel vivo con tutta l'attività didattica che propone il festival. Quindi queste sette coppie di grandi artisti argentini daranno stage, corsi per tutti i livelli, e ci saranno le serate che prenderanno casa al Lingotto, le serate con l'esibizione di tutti gli artisti. Insomma, ragazzi, se siete appassionati di tango, ma non solo ragazzi, anche adulti, non lasciatevi sfuggire questa occasione di poter ballare per le strade di Torino, che diventa un po' la nostra Buenos Aires italiana. Tango Torino Festival fino al 5 aprile, proprio a Torino. Cartellone. ricordate questa sigla, la sigla delle quattro amiche di New York, tra cui Samantha, che era interpretata da Kim Cattrall e che era un'artista, un'attrice londinese, ed è in scena proprio a Londra questa settimana con Private Lives dell'inglese Noel Coward al Vaudeville Theatre. C'è andata per noi la nostra Michela Daghini. Ciao Michela. Ciao Elisabetta, ciao a tutti. Allora, com'è Samantha sul palcoscenico? Dunque, lei è davvero brava, è proprio brava. Hanno detto, la stampa dice di lei, rende orgoglioso Coward, l'autore appunto che hai citato. I giornali l'hanno acclamata ed è davvero molto brava in scena e molto attrice vera, non è con la classica star di Hollywood che con il suo nome chiama il pubblico senza poi rendere granché. Di fatto lei è di origine britannica, come dici, è nata vicino a Liverpool, ha studiato alla London Academy of Music and Dramatic Art e fino al 97, prima di diventare Samantha Jones nella celebre produzione, oltre ai successi cinematografici in realtà lei ha partecipato già a numerose importanti produzioni teatrali, quindi lei non è nuova ai palcoscenici londinesi. Questa è una produzione intelligente e divertente, Gorgeous and Glorious l'hanno definita, splendida e gloriosa, e loro due, i protagonisti, che sono appunto Kim Cattrall e Matthew McFadden, che è quello che, per ricordarvi, interpreta Mr. Darcy nell'Orgoglio e Pregiudizio, quello di Joe Wright, e adesso nelle sale anche con Senza apparente motivo, dove lui è Terence Butcher, l'ufficiale di polizia incaricato delle indagini. Sono molto bravi, sono una coppia azzeccatissima, anche se lui ha 20 anni meno, sono entrambi star del cinema. Sono davvero, davvero bravi e davvero divertenti, ecco, in questa commedia. Michela, che ruolo interpreta Kim Cattrall al secolo? Kim Cattrall, ma insomma più conosciuta come Samantha Jones, sempre la panterona che mangia uomini, mangiatrice di uomini, oppure un altro ruolo? Ecco, qui diciamo che Samantha c'è, si vede, la si riconosce, perché è una donna molto glamour, molto sicura di se stessa, che conosce la propria mente, nel senso che sa bene ciò che vuole, conosce bene anche il proprio corpo e le proprie armi di seduzione, quindi è una donna sicura di sé che però ha anche una fortissima ironia sottile, per cui il personaggio è davvero, davvero godibile, ed è la storia di un uomo e di una donna, sono belli, facoltosi, brillanti, divorziati da 5 anni, che durante la luna di miele con i nuovi rispettivi partner scoprono non solo di avere casualmente prenotato lo stesso albergo nel sud della Francia, ma di alloggiare addirittura in 2 camere adiacenti. Entrambi sono sui rispettivi balconi con i calici per brindare al matrimonio, mentre gli altri due partner sono all'interno, e si vedono, si parlano, e il loro disappunto iniziale si trasforma poi in gioia quando, dopo una serie di colpi di scena, scoprono di essere ancora incredibilmente attratti e innamorati e decidono di fuggire subito insieme per Parigi, ma questo in pochi minuti, all'insaputa dei coniugi, e naturalmente questo straordinario ritorno di fiamma poi alla fine si rivelerà non troppo duraturo, perché naturalmente nulla è cambiato e naturalmente riaffiorano i litigi e le incomprensioni di sempre. Lei, come dicevo, è irresistibile, tra l'altro canta bene, è una brava attrice, è molto divertente, conosce molto bene i tempi comici, ha una mimica facciale notevole, e quindi anche con un silenzio, con uno sguardo, con una smorfia riesce davvero a divertire il pubblico. Infatti il teatro è pieno, sta andando molto molto bene, ed è uno spettacolo che mi sento di consigliare, perché passi davvero una bella serata, se puoi ridere, con un testo intelligente, bravi attori, una bella regia, belle scene, c'è anche questo loft dove ambientano l'appartamento parigino, che è un loft con i soffitti di 10 metri in stile Art Deco. Insomma, quindi c'è da divertirsi. Allora ricordiamo, grazie a Michela Daghini, chi si trova a Londra per Pasqua, noi consigliamo, anzi Michela consiglia, al Vaudeville Theatre, Private Lives di Noel Coward con Kim Cattrall, la ex Samantha di Sex and the City. Ciao Michela. Ciao Elisabetta, ciao a tutti. E adesso ritorniamo a Torino, dove ci occupiamo di arte moderna e contemporanea. In corso è la mostra 21x21, 21 artisti per il XXI secolo, organizzata in occasione delle celebrazioni dei 100 anni di Confindustria. Un'esposizione voluta dalla stessa Confindustria, insieme all'Unione Industriale di Torino, per sostenere la produzione artistica e il percorso dei giovani talenti più promettenti e per valorizzare la creatività italiana. Curata da Francesco Bonami, direttore artistico della Fondazione Sandretto Rebaudengo di Torino, la mostra rimarrà aperta nel capoluogo piemontese fino al 31 agosto. Francesco Bonami al microfono della nostra Adriana Fracchia. Abbiamo pensato, per celebrare i 100 anni di Confindustria, quindi un'organizzazione che guarda al futuro, di organizzare una mostra con 21 artisti nati dopo il 1970, quindi al massimo quarantenni, che parleranno dell'arte contemporanea dell'Italia di oggi e del futuro. E questo era il nostro obiettivo, era quello di dare una mostra che fosse fresca, che fosse dinamica, che rappresentasse appunto uno sguardo in avanti. Sguardo con genialità malinconica. Sì, perché la malinconia, perché noi abbiamo qui come italiani, abbiamo questo passato, questa tradizione, questa grandissima storia che in fondo ci attanaglia un po', e quindi quando la dobbiamo lasciare siamo sempre un po' malinconici, però siamo anche geniali, lo abbiamo sempre dimostrato nel corso della nostra storia, la genialità che ha contraddistinto proprio l'imprenditoria italiana. E quindi credo che questa combinazione crei una visione anche delle opere d'arte, un prodotto culturale molto particolare, unico al mondo. Ecco, 21 artisti, alcuni più affermati, altri un po' meno, ma legati da quale filo? Beh, il filo è proprio questa ricerca attraverso i materiali, attraverso un paese che cambia, di costruire delle opere d'arte, di costruire una storia, di raccontare delle storie attraverso le loro idee, i loro lavori, con il materiale che hanno a disposizione, che è l'Italia, la cultura italiana e anche appunto la genialità italiana. Comunque un'esposizione che vuole sostenere la produzione artistica e il percorso dei giovani talenti. Quanto è importante questo? Sì, è importantissimo. Noi abbiamo prodotto moltissime delle opere in mostra e credo che sia importante puntare e scommettere sui giovani talenti, rischiare. L'arte contemporanea è un rischio perché non ha il paracadute della storia, non ha il paracadute della tradizione, però è un rischio che va giocato perché è veramente così che si forma una cultura. Noi siamo l'Italia con tutti i tesori che abbiamo, perché nel Rinascimento e nell'età del Barocco a Roma, a Firenze e a Venezia c'erano imprenditori che puntavano e scommettevano sugli artisti di quel tempo. Se noi vogliamo avere un'Italia anche in futuro che competa con l'Italia del passato, dobbiamo investire e rischiare sugli artisti del futuro. Perché questi 21 artisti sono tutti italiani? Sono tutti italiani, a parte c'è un Ian Tweedy che è un americano che vive in Italia da 20 anni, ma sono tutti italiani. Oltre a questa mostra dei 21 artisti per il XXI secolo, una personale anche di Alberto Garutti. Alberto Garutti è, diciamo, una figura, il maestro di tantissimi giovani artisti che poi si sono affermati, e quindi un guru, direi, delle generazioni che poi si sono affermate dopo di lui. Però è un artista che lavora con la tecnologia, presenta questi quattro percorsi elaborati al computer che sono dalla fondazione a vari punti della città di Torino, che diventano quasi degli spartiti musicali, più questo grandissimo, bellissimo lampadario che è collegato col CESPI, che monitora tutti i fulmini che ci sono sopra il territorio italiano. Quindi ogni volta che c'è un fulmine, ce ne sono tantissimi, qualche volta 400 all'ora, il lampadario si accende all'improvviso, se no rimane con una luce fioca molto bella. Quindi questo rapporto fra spazio urbano e spazio, diciamo, cosmico. E si è aperta ieri e finisce domani la mostra AM, Arte Accessibile Milano, negli spazi del Sole 24 Ore a Milano, via Monterosa 91, nell'arena del nostro giornale. 50 pittori e scultori italiani e stranieri che espongono le loro opere, insieme ricordiamo sia negli spazi comuni del Sole, quindi a Via Monterrato 91, e di Price, una mostra di arte contemporanea organizzata da Arte Ipse Dixit e aperta al pubblico. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone @radio24.it. Vi ricordo che potete riascoltare la nostra puntata sul nostro sito www.radio24.it. Una buona giornata e un buon weekend a tutti da Elisabetta Fiorito.